tempo di sport. Amici di Radio 24, buon pomeriggio da Massimo Callegari, Fabio Cantadori in regia, Luca Rinaldi in redazione. Non ho dubbi che arriveranno anche oggi telefonate all'800 24 00 24 e messaggi sms al 349 238 6666 sulla operazione Ibrahimovic, che come avete sentito anche dal GR, i bookmakers danno sempre più probabile con il passaggio dello svedese al Milan. Ne capiremo di più in queste ore e domani, quando si disputerà il trofeo Gamper, ricordando ancora una volta che già al Gamper Berlusconi chiuse un grande affare della sua storia presidenziale, quello che portò Ruud Gullit dal PSV al Milan. Era il 1986, Gullit arrivò nell'87, ma in attesa di questo e altri temi proposti da voi, è il momento ed è il caso di tornare su le parole che vennero riportate e proposte dalla Gazzetta dello Sport il 10 luglio 2010. La firma è quella di Ruggero Palombo, che è con noi in collegamento. Il titolo del suo pezzo era «Collina se ne va e tutto tace». La sostanza, leggo alcuni dei brani, ha finito quasi col passare inosservata la dipartita di Pierluigi Collina, un anno di anticipo sul limite del suo mandato di disegnatore fissato a 4 anni nell'estate 2007. A Collina, Nicchi e Abete non hanno opposto in sostanza obiezioni alla sua decisione di andarsene anche per l'incarico in Ucraina, oltre a quello già definito ufficialmente dalla UEFA in aprile, nonostante Collina abbia spiegato che un mandato in scadenza da regolamento non è mai un bel vivere, che tenere sotto controllo arbitri che già sanno che l'anno prossimo sarai tra virgolette scaduto non funziona. Noi abbiamo sentito anche per Luigi Collina per chiedergli naturalmente conto di queste valutazioni. Lui ha detto: sono naturalmente libere interpretazioni i motivi e le ragioni che hanno portato al mio addio a questo ruolo, è giusto che l'abbiano sapute e ricevute le persone competenti. Però è in collegamento con noi Ruggero Palomo, perché la stagione sta per iniziare e sarà importante capire cosa ci aspetta. Bentornato Ruggero, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. È cambiato qualcosa da quel 10 luglio? Non è che è cambiato, è avvenuto che comunque posti tutti di fronte al fatto che Collina lasciava, è stata presentata la nuova squadra, la nuova squadra dirigenziale che guiderà gli arbitri la prossima stagione. E come sapete le leghe nel frattempo si sono anche divise in questa lunga estate del calcio e della politica del calcio, la Lega di Serie A da una parte, la Lega di Serie B dall'altra, e ciascuno, si sono divisi anche gli arbitri in due fasce, e a designare gli arbitri di Serie A sarà Stefano Braschi, un ex arbitro ed ex anche dirigente del Siena Calcio, e a dirigere le squadre di Serie B, a designare gli arbitri per il campionato di Serie B sarà Rosetti, sì. che ha appena finito la sua col mondiale, ha finito la sua avventura di arbitro in campo. Però il fatto nuovo politico è che a fronte di questi due designatori c'è un presidente dell'AIA, Marcello Nicchi, che ha acquisito sarà un po' il loro tutor e ha acquisito un maggiore potere in seno alle designazioni. La tradizione voleva che il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri nulla avesse a che fare con quelli che erano i settori tecnici della stessa associazione, mentre adesso qui avremo e Nicchi lo ha detto esplicitamente, un controllo stesso, una sorta di supervisione, e Nicchi accompagnerà Braschi e Rosetti in questo primo anno di avventura. Ecco, io non voglio, concludo rapidamente, non voglio avere posizioni preconcette, nel senso che guarderò il loro lavoro e con curiosità e interesse e faccio loro tanti auguri. Ribadisco però quello che dissi già il 10 di luglio, che secondo me io avrei preferito un altro anno di Collina a completare un lavoro secondo me che era a buonissimo punto e che è stato un lavoro, pur accompagnato da tante critiche, secondo me positivo di ricambio generazionale della classe arbitrale. Sì, su questo concordo, poi magari entriamo anche nel dettaglio sulle prestazioni degli arbitri e sulla loro crescita e sulla, sul consolidamento dei valori, che è quello che attende ad esempio Tagliavento, che nel secondo anno dovrà confermare quello che ha fatto l'anno scorso, mentre Rizzoli, Saccani e altri hanno mancato proprio questo ulteriore salto di qualità. Poi mi dirai anche la tua, però vorrei rimanere su questo aspetto più politico, come lo chiami tu, perché ad esempio Paolo Casarin pochi giorni fa sul Corriere della Sera ha scritto: grande entusiasmo da parte degli arbitri nel raduno di Sportilia, non si è capito però a chi devono fare riferimento, riprendendo queste tue annotazioni, a Braschi o a Nicchi. Può diventare un problema questo e perché? Sì, può diventare un problema, per questo ti dico che io non voglio avere posizioni preconcette, ma osservo che questa formula del supervisore e del designatore già crea una situazione di doppio, che può diventare dualismo, che può diventare doppiezze, quindi già questa è una suddivisione che mi convince poco, ma mi convince ancor meno il fatto che ripeto, il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, cioè una figura che dovrebbe avere altre funzioni di garanzia nei confronti del mondo arbitrale, che non quelle sostanzialmente di decidere le carriere degli arbitri, perché poi il designatore questo fa alla fine, sì. Il presidente appunto assuma anche questa veste, per cui c'era una suddivisione, è un po' come il discorso della suddivisione dei poteri dello Stato, no? Adesso se metti insieme tutti i poteri dentro un'unica figura, questo secondo me non è una cosa mai fatta, ma ripeto, poi magari Nicchi si rivelerà invece formidabile in questa sua doppia funzione e assolutamente trasparente, quindi saremo tutti felici di registrarlo. Pensi che qualcuno abbia già lì pronto nel cassetto il file, il dossier, non mi sembra il caso di chiamarlo, anche perché è una cosa molto nota, sulla esperienza dirigenziale di Braschi, che venne sostanzialmente escluso dall'Associazione Italiana Arbitri, poi reintegrato dopo quel passaggio al Siena? Può essere un peso per lui? Insomma, l'avere designatori, arbitri che sono passati attraverso l'esperienza del club in veste di dirigenti non è una cosa che mi entusiasma. Insomma, io preferirei che se percorso deve esserci tra terreno di gioco e poi carriera dietro una scrivania o davanti a una televisione o dentro uno stadio a osservare i propri eredi, questo avvenga senza il passaggio in ruoli dirigenziali di un club, che vuol dire avere comunque in un certo momento della propria vita pensato di passare sull'altra parte della barricata, e quindi questo secondo me non è, però diciamo anche che l'esperienza di Braschi è stata così breve, così fugace, che devo ritenere che anche qui poi sia il campo e il risultato di questa nuova attività a essere il giudice più importante. Poi per fortuna diciamo anche che il Siena quest'anno sta in Serie B e quindi Braschi col Siena non avrà nulla a che fare. Ti chiedo ancora un attimo di pazienza, ci sono aggiornamenti dalle strade per affrontare altri temi, senza eccedere naturalmente in quella che Collina prima telefonicamente ha definito dietrologia, che è una caratteristica molto italiana della quale lui si era anche un po' stancato. Tra poco le prime telefonate all'800 24 0024, messaggi al 349 238 6666. Con noi Ruggero Palombo della Gazzetta dello Sport, stiamo parlando di arbitri. Tra un attimo ti chiederò anche, per chiudere, qualche considerazione sui tempi della giustizia sportiva in senso generale. Ci puoi spiegare come si motiva la scelta di Rosetti in un tempo in cui tanti arbitri, penso a Farina e anche ad altri, hanno cercato di prolungare addirittura la loro carriera oltre il limite dei 45 anni, lui lascia in largo anticipo. Quanto c'è di scelta personale e quanto hanno inciso anche le prestazioni al Mondiale e nell'ultimo campionato al di sotto delle sue potenzialità? Ma io credo che l'elemento decisivo sia stato la possibilità anche sul commiato di Collina di compiere immediatamente una sorta di salto triplo salto mortale, di ritrovarsi già designatore della neonata Lega di Serie B. Cioè, un'opportunità come questa passava quest'anno, in cui c'era lo sdoppiamento dei designatori, e non sarebbe passata l'anno prossimo, e quindi credo che questo sia stato l'elemento predominante, visto che ormai comunque appunto di ultimo anno per Rosetti si sarebbe trattato, senza ulteriori prospettive anche in campo internazionale, visto poi la sfortunata avventura del Mondiale, che sicuramente è da definire tale, anche perché in quel disgraziatissimo episodio con l'Argentina è chiaro che le maggiori responsabilità sono del guardialine, anche se Rosetti ci ha messo del suo Airoldis. Per chiudere, ti saluto chiedendoti se dobbiamo aspettarci novità, interventi da parte di Palazzi. Ci sono naturalmente ascoltatori che scrivono e chiedono aggiornamenti su quella che viene definita Calciopoli 2. Io ti chiedo anche se dobbiamo aspettarci qualcosa in riferimento ad altri aspetti, considerando che il deferimento a Moratti per il confronto con Preziosi è arrivato con grande ritardo rispetto alle trattative dell'anno scorso. I tempi di Palazzi ti convincono e cosa ci dobbiamo aspettare, appunto? No, i tempi di Palazzi storicamente non mi convincono, però nello specifico, come sa chi ha la cortesia di leggermi ogni tanto, nel caso specifico diciamo della cosiddetta Calciopoli 2, io avevo auspicato addirittura una procedura di giustizia sportiva che si esaurisse prima dell'inizio del prossimo campionato, ma chiaramente si trattava di un'ampia illusione e utopia, perché nel momento in cui la federazione ha deciso, secondo me con colpevole ritardo, di porre mano a tutta la serie di telefonate sopraggiunte e quindi alla necessità di sbobinarne circa 170.000, tutti i tempi automaticamente si allungano, tanto più che una volontà espressa dalla federazione di avere tutto questo materiale in mano il 1 giugno, siamo quasi al 1 settembre e questo materiale dalla procura di Napoli alla Federcalcio non è ancora arrivato. Non so dire, non ho la competenza per dire di chi siano le responsabili, se ci siano degli intoppi tecnici o giudiziari o che cosa. Fatto sta che è un materiale che non è attualmente in possesso della federazione, almeno questo è quanto ci dicono, e ancora non è cominciata una procedura che fatalmente si trascinerà per mesi e che porterà a un riesame di quella situazione, secondo me non prima della primavera, se non addirittura dell'estate prossima. Bisogna mettersi l'animo in pace e avere pazienza, considerando che tanto non si ha incidenza sui campionati che vengono. Si può avere un'incidenza, e io ho già espresso il mio parere in materia, su quelli che sono stati degli scudetti consegnati a tavolino. Quanto a deferimenti e a cose invece di immediatezza sulla quotidianità, beh, mi sembra che oggi in qualche modo il presidente dell'Inter Moratti abbia fatto, vedo sui giornali, un'affermazione che secondo me è meritevole dell'attenzione della giustizia sportiva, e potrebbe essere secondo me tranquillamente passibile di un deferimento. Che ci sia o non ci sia, la cosa che auspico è che non sia un deferimento che arriva tra 8 mesi, ecco, perché se ci deve essere può arrivare tranquillamente in 24 ore. Grazie Ruggero Palombo della Gazzetta. Grazie dello a voi, Sport. A presto. Meglio essere multietnici che comprare le partite, questa frase mistica del presidente Moratti ieri, nel momento in cui avrebbe potuto celebrare semplicemente il successo dell'Inter in Coppa Italia sulla Roma e anche l'inizio della nuova stagione, come del resto ha fatto, ma non in maniera assoluta e serena. C'è un ascoltatore all'800240024 su questo tema, altri sul calciomercato. Chiuderei questo aspetto relativo agli arbitri con Marco da Napoli, salutando però nel frattempo anche Graziano Cesari, che è compagno di viaggi e di avventure ormai da 3 anni a Mediaset Premium, che segue naturalmente le vicende arbitrali con grande attenzione. Cercheremo con lui di andare più sul tecnico rispetto alle valutazioni politiche con Ruggero Palombo. Buon pomeriggio Graziano e buon pomeriggio Massimo. Buon pomeriggio a Marco da Napoli, al quale rispondiamo insieme. Prego. Buongiorno, salve, buon pomeriggio. Senta? Sì, prego. Sono un tifoso gioventino della categoria cosiddetta dei Gran Corosi, diciamo. forse coloro i quali non hanno digerito la cosiddetta Calciopoli 1. E niente, quindi vorrei dire un milione di cose, ma non so da dove cominciare. Dico solo questo: se Moratti tira in ballo continuamente il rubare le partite, c'è riferimento a Calciopoli, forse perché lui sa benissimo che le fortune attuali dell'Inter derivano integralmente da quello che è successo nell'estate del 2006. Senza quegli episodi, senza quella giustizia così frettolosa contro la Juve, senza la rinuncia della società Juventus a difendersi, come ha detto Cruciani qualche tempo fa in modo molto preciso. Certamente l'Inter è una grandissima squadra, ma ci rendiamo conto che sono 5 anni che vince lo scudetto, sempre la stessa squadra, e quest'anno sarà di nuovo la stessa cosa, perché non c'è paragone economico tra Moratti e tutti gli altri presidenti. L'unico che può riuscire a contrastarlo era Moggi con la sua competenza calcistica. Vabbè, va bene, grazie Marco. Come ha detto anche Cruciani, però, con tutto il rispetto, come ha detto lui, per chi ha chiamato, è anche un po' noioso tornare su questo. E come dice sempre Arrigo Sacchi, e come sono convinto, Luciano Moggi era un grandissimo dirigente competente di calcio, ma faceva anche qualcos'altro. Con Graziano Cesari vorrei parlare invece di aspetti più tecnici per capire, ad esempio, Graziano, cosa cambia da Collina a Nicky Braschi Rosetti e cosa cambia con questa suddivisione tra Serie A e Serie B. È una cosa positiva e motivante per gli arbitri o no? Dunque, Massimo, innanzitutto sono molto contento della promozione a Braschi a designatore della Serie A e B, quindi caratterialmente è un uomo molto molto forte, lo dimostrava sul terreno di gioco come direttore di gara e credo che darà grandi motivazioni agli arbitri che lui dirige. Certo, è positiva. Io ho vissuto sulla mia pelle, perché sono stato uno di quegli arbitri che facevano parte già in passato di una categoria di A e una categoria di B, però erano categorie chiuse. La grande novità di quest'anno è che gli arbitri di A non potranno scendere in B, ma dovranno accomodarsi in tribuna. Gli arbitri di B invece potranno salire di categoria. Questo serve da incentivo per questi ragazzi giovani che si apprestano a dirigere il campionato cadetto e serve da motivazione per gli arbitri di che nella massima categoria devono affrontare l'impegno con sempre maggior determinazione. Credo che sia positiva questa novità. Abbiamo parlato anche l'anno scorso noi in varie situazioni in riferimento ad alcuni percorsi individuali degli arbitri, penso a Rizzoli, Saccani ed altri, e ne abbiamo parlato poco fa con Ruggero Palombo con un accenno alla necessità che ci sia una conferma da parte degli arbitri, nel senso che con Collina abbiamo visto grandi stagioni da parte di arbitri che ho citato, poi è mancata quella del consolidamento, ad esempio quest'anno è atteso Tagliavento. Cosa serve per confermarsi così autorevoli ed equilibrati rispetto alla stagione precedente? Innanzitutto serve un gruppo coeso, un gruppo più o meno uniforme, mi riferisco al valore individuale degli arbitri. Quello che era successo con Collina è che c'era un grandissimo utilizzo di una parte di loro, 3-4 arbitri che facevano grandi partite e gli altri sempre fermi o ai box oppure ai margini del campionato, quindi non avevano mai fatto match club. Io credo che Braschi voglia generalizzare l'utilizzo delle grandi partite distribuite su tutti gli arbitri. Questo mi fa pensare, già le prime designazioni sono state significative, sì. La Supercoppa data a Bergonzi, un arbitro che l'anno scorso ha fatto molto molto bene e quest'anno deve confermarsi a livello internazionale, deve scalare anche a livello internazionale, e a Romeo addirittura per il trofeo Berlusconi, un'anteprima gradita molto spesso agli internazionali, un vernissage che faceva piacere a chi è già protagonista del campionato italiano. Quindi credo che stia già cambiando qualche cosa. La seconda cosa è che ci sorprenderà Braschi nelle prossime designazioni, vedremo arbitri che magari hanno arbitrato pochissimo impegnati immediatamente. Credo che questo sia l'elemento importante. E poi quello che Braschi ha detto in ritiro è una cosa molto molto importante: meno fischi, più responsabilità, più coraggio e utilizzo del cartellino per salvaguardare il gioco. Finalmente, probabilmente quest'anno, e credo che questa sia una grande innovazione a cui credo molto, vedremo che i giocatori di maggior classe saranno più tutelati. C'è ancora molta differenza tra l'arbitraggio italiano e l'arbitraggio internazionale? Enorme, l'abbiamo visto ai campionati del mondo, lo vediamo adesso, chi segue la Premier League, chi segue la Bundesliga, la stessa Liga Spagnola, sono arbitri che probabilmente perché i giocatori accettano con più serenità e con più tranquillità le loro decisioni, sono arbitraggi molto molto molto più tranquilli. Io ieri ho visto un Manchester Manchester City Liverpool dove l'arbitro non ha fatto nessuna fatica a dirigere questa partita, pur ora una partita di grandissimo di cartello. Qui già nelle amichevoli di precampionato abbiamo visto cosa sta succedendo. Sì. È un calcio totalmente diverso. Noi dobbiamo cambiare sicuramente mentalità, la cambieremo anche noi opinionisti che in qualche modo giudicano il calcio, ma soprattutto i tifosi devono aiutare i direttori di gara. Questa è una stagione importantissima, io ci credo molto. Tifosi... credo che sia una stagione bellissima questa. Speriamo, lo speriamo. Bellissima. Tifosi e giocatori, lo si è visto anche nella finale mondiale, Webb non è stato aiutato per niente da spagnoli e olandesi. Anche perché avevano scarsa fiducia, probabilmente lì c'è stato anche un concorso dalla stampa che aveva presentato questo arbitro come nemico di tutte le nazionali. E quindi a questo punto i calciatori sono trovati forse autorizzati, dico un paradosso chiaramente, a protestare. Però probabilmente non era neanche la prima scelta, diciamo la sincera verità. Infatti, mi dici in 15-20 secondi i nomi degli arbitri sui quali puntare per la prossima stagione di Serie A? Beh, te ne do uno che fa la Serie B. Ah. Perché sarebbe troppo semplice dare quelli che fanno in Serie A. Allora ti dico che presto vediamo in Serie A, lo vedremo anche a livello internazionale, un arbitro che si chiama Ostinelli. Benissimo. Di Como. Benissimo. Segniamo e poi facciamo, facciamo tutte le valutazioni del caso. Grazie Graziano Cesari, a prestissimo su Premier Calcio. Grazie a voi, grazie a te Massimo, buona trasmissione. Grazie. Pier Antonio dalla provincia di Venezia, primo ascoltatore della giornata all'800 24 00 24, su temi tecnici naturalmente escluse le valutazioni precedenti su ambito arbitrale. Buon pomeriggio Pier Antonio, prego. Buongiorno per la sua competenza e professionalità. Niente, volevo porre la sua attenzione, io sono un appassionato tifoso della Roma, così, una deludente campagna acquisti. Sul tecnico volevo approfondire più che altro la questione del portiere, sappiamo benissimo che a priori Toni, l'ex titolare, è stato scartato, sì. Abbiamo potuto assistere anche così a una prova deludente da parte di Lobont. Molto deludente. Dal mio punto di vista c'è stato lì la vera Pekant nella partita della Supercoppa e successivamente io mi pongo l'attenzione e dico come è possibile l'anti-Inter per in primis che è la Roma e deve affrontare la Champions League e la Coppa Italia senza alcun sostituto sulle fasce, sostituti naturali di Cassetti e di Rise. Chiedo a lei veramente se la Roma può essere veramente l'anti-Inter con questa rosa e soprattutto a livello europeo fino a dove può arrivare. Lei avrebbe preso Adriano? Dal mio punto di vista Adriano è un attaccante di peso, un attaccante che alla Roma può servire. È una scommessa, Ranieri ha dimostrato la sua grande professionalità sia lo scorso anno che in passato. Adriano è un fenomeno, è un talento, se ritorna grazie agli stimoli che potranno arrivare sicuramente da una tifoseria come quella romana, può tornare a essere un grande campione e sicuramente ritornare utile a questa squadra. Grazie Pier Antonio, quanto alle considerazioni che mi ha chiesto, sicuramente è una rosa ristretta quella della Roma, nel senso che l'impegno della Champions è tremendo, sicuramente c'è fino a dicembre, poi se la Roma è nelle prime due del girone c'è almeno fino alla fine di febbraio, se poi la Roma invece, come i tifosi non si augurano, non arrivasse nelle prime due ma fosse terza, passerebbe comunque in Europa League da febbraio, quindi è una stagione che in ambito europeo ci sono ottime possibilità per pensare che almeno sino all'inizio della primavera vede impegnate i giallorossi. Questo significa che la rosa è molto ristretta, che il recupero di Adriano è molto molto lento e complicato, come si è visto non solo dalle condizioni ma anche dal modo in cui lui si è presentato in campo camminando a San Siro sabato scorso in Supercoppa. Burdisso è un ottimo difensore centrale, sicuramente più affidabile di Mexès che proprio anche sabato scorso ha confermato i suoi limiti di tenuta mentale quando sale la tensione. Manca un vice Rise, ribadendo che Rise l'anno scorso ha fatto molto, forse più di quanto ci si aspettava, e non sarà facile per lui confermarsi, soprattutto dal punto di vista difensivo mantiene delle carenze che ad esempio sono state quelle fatali nella partita decisiva dello scorso campionato con i due gol segnati da Pazzini, marcato da Rise all'Olimpico contro la Sampdoria. Antonio dalla provincia di Caserta, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, niente, volevo fare una considerazione del possibile acquisto del Milan di Ibrahimovic. Sì. praticamente secondo me vendere Bordillo per acquistare Ibrahimovic non è che è una grandissima idea. A questo punto l'acquisto di Ibrahimovic ci sarebbe soltanto una cosa mediatica fondamentalmente, perché non cambierebbe niente, anche perché rimarremmo con tre attaccanti e a pochi, un solo sostituto praticamente, che è Unteras. E non so lei che ne pensa, ma non è che sarebbe una grandissima, credo. Sì, sicuramente è una mossa che ha un impatto mediatico clamoroso. Dal punto di vista individuale, Ibrahimovic è un giocatore più forte di Borriello nel complesso. Bisogna capire quanto è funzionale a questo tipo di squadra, non solo per i giocatori che lo affiancherebbero in attacco, quindi Ronaldinho e Pato, ma anche per quelli che sono alle spalle degli attaccanti, che già l'anno scorso con il solo Ronaldinho hanno dovuto sobbarcarsi un lavoro notevole. Quest'anno c'è un anno in più, è vero, è arrivato Boateng, che può avere una funzionalità importante in questo senso, però tre giocatori così davanti che aiutano poco nella fase in cui gli altri hanno il pallone non li ha nessuno al mondo. È anche vero che nel campionato italiano spesso, molto spesso negli ultimi anni, il Milan, che nel 99 ha vinto solo un campionato nel 2004, il Milan ha perso molte delle occasioni per vincere i campionati contro le squadre medie o addirittura piccole, l'anno scorso con il Livorno e poi con il Catania e poi tante altre situazioni. Un attaccante come Ibrahimovic è una garanzia assoluta per questo, lo è molto meno in Champions League, dove l'abbiamo visto in grande difficoltà, nonostante si fosse sbloccato in quella partita fantastica del Barcellona per 80 minuti all'Emirates contro l'Arsenal, segnando una doppietta. Poi però, quando è salita la posta in palio contro l'Inter e quando dal punto di vista mentale c'era da reggere il confronto anche con l'ambiente avversario, con il suo ex allenatore, con i suoi ex compagni, ha fallito in maniera clamorosa, come aveva già fatto in altre situazioni con la maglia dell'Inter, anche con quella della Juventus, perché i tifosi della Juve si ricordano quel suo colpo di testa contro il Liverpool dal dischetto del rigore, un'occasione pazzesca che fallì nella gestione di Capello, per il quale poi, sul quale poi torneremo in maniera così molto leggera, per ribadire che in Inghilterra non sono momenti facili per lui. Simone da Firenze, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio. Io vorrei riprendere il problema che sta notando verso le sanzioni che vengono applicate alle tifoserie, in specifico alla Roma, che mi dica lei un commento sui 20.000 euro, che praticamente facciamo prima non dargli niente, verso la tifoseria, che non sto facendo una morale verso la tifoseria, ogni tifoseria cioè, può prendere le decisioni che vuole, però l'organo che decide le sanzioni, io non riesco a capire con che metodo valuta queste cose, cioè non riesco a capirlo, perché cosa deve fare la tifoseria della Roma per avere una giornata di squalifica del campo? Cosa deve fare? Mi dica lei. Cioè ogni tifoseria può prendere, cioè può fare, si prende proprio responsabilità. Io non sto facendo una morale verso le tifoserie, sto facendo un discorso verso l'organo competente che decide le... Cioè io vengo da Firenze e vedo che con una bottiglietta lanciata ci sono due giornate di squalifica del campo. Cioè tifoserie come la Roma fanno ferro e fuoco in tutta Italia e nessuno ha il coraggio di dire da oggi vi si squalifica il campo. Cioè poi si può risolvere i problemi, io non lo so come si può fare. Però guarda Simone, ne parleremo domani in maniera molto approfondita di questo, della tessera del tifoso, di quello che ci aspetta e di quanto anche oggi ha dichiarato proprio Ruggero Palombo sulla Gazzetta dello Sport il ministro Maroni. Parleremo di tutto questo. Per ora mi limito a riportare una testimonianza assolutamente diretta e personale, che è quella di sabato scorso. In tribuna stampa a un certo punto c'è stato un attimo, non di paura, però di caos, perché c'era un gruppo di tifosi dell'Inter nella tribuna a fianco che voleva assolutamente venire in tribuna stampa. Si pensava che volessero farlo proprio perché era un'occasione del gol del 2-1. Per prendersela con qualcuno o per motivi non proprio pacifici, in realtà volevano aprire la via per le persone che erano in quella zona di tribuna più vicina però alla curva dove erano sistemati i tifosi della Roma, perché lì arrivava di tutto, accendini, bottigliette e altro. Ho visto ragazzi molto giovani impauriti, molti delusi, tanti arrabbiati, e l'espressione era proprio quella di persone che dicono: ma com'è possibile venire allo stadio e poi non riuscire neanche a vedere la partita in pace, in una posizione, in una zona molto costose peraltro innanzitutto, e poi in cui non dovrebbero esserci assolutamente problemi per seguire la partita. Quindi questo è sicuramente un aspetto di cui si può parlare, che ho vissuto ripeto in maniera diretta, e che mi è sembrato un momento davvero vergognoso, quello che poi ha portato alla sospensione della partita, con Giulio Cesare che ha rischiato tantissimo, tant'è che in quel momento, è vero, sarebbe stato già una mezza sconfitta in partenza, ma ho anche pensato che Bergonzi potesse decidere di fare quello che fece Collina in una famosa sua direzione di gara allo Zaccheria di Foggia, in un Foggia Bari, quando cambiò i due portieri e dunque invertì il campo delle due squadre per evitare incidenti, quindi il portiere del Foggia sotto la cura del Foggia, quello del Bari sotto la cura del Bari, e così tutti più tranquilli. Era una mezza sconfitta, ma ripensando anche a quello che successe a Dida qualche anno fa, Giulio Cesare ha rischiato molto sabato sera. Fabio dalla provincia di Varese, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio. Volevo fare una riflessione sull'ultima discussione fatta. Ho visto in Sturmgraz Juventus un addetto al bordo campo che copriva Del Piero mentre batteva il calcio d'angolo con un ombrellone, penso, per evitare. Sì, come in Sud America, lì ci sono i poliziotti con gli scudi. Purtroppo è difficile farlo per Giulio Cesare Dida, però. Sì. No, chiamavo invece per fare una riflessione sulla Juventus e su Diego e avere un suo parere rispetto a questo Diego, che è un po' un cruccio per noi tifosi juventini finora. Stavo pensando che forse il problema di Diego non è Diego, ma le punte con cui è costretto a giocare Diego, nel senso che pensavo che non c'era una punta che dava che dà profondità nella Juventus. C'è Mauri, che è bello piazzato, fa da sponda, un lottatore, Iaquinta è un altro corridore, Trezeguet e Iaquinta comunque non hanno giocato tanto con Diego per infortuni vari. Quindi pensavo, e volevo sapere cosa pensava lei, se con un Pazzini ad esempio poteva anche trarne vantaggio Diego. Siete ringrazio. In tanti che sognate Pazzini, sì, fate bene, credo facciate bene ancora, nel senso che poi sognare non costa nulla, e qualche base realistica ci può ancora essere, soprattutto se questa sera la Sampdoria non riuscirà, suo malgrado, a superare il turno preliminare, il playoff di Champions League. Tra poco sentiremo anche proprio le considerazioni di Pazzini. Quanto a Diego, è vero che molto dipende anche da chi si ha davanti. Uno degli aspetti, ad esempio, che hanno limitato, insieme a tanti altri, l'esuberanza e le potenzialità di Leo Messi al Mondiale, soprattutto nelle gare decisive, è stato il fatto di avere come compagno d'attacco un formidabile goleador come Higuain, migliorato molto anche nella fase realizzativa rispetto a Guardiola in Argentina a River Plate, ma non così regista offensivo e d'attacco come lo è e lo è stato per l'Inter Diego Milito. A Mauri non ha queste caratteristiche, Pazzini in parte le ha di più, sicuramente è più abituato a dialogare e ha capacità di movimenti notevoli. Visto che Fabio chiamava dalla provincia di Varese e visto che Davide da Lonate in provincia di Varese chiedeva giustamente una considerazione, un accenno al Varese che ha vinto a Torino, è giusto, nel senso che è una vittoria storica. Era, come avevamo un po' anticipato ieri ai tifosi del Toro che chiedevano una stagione senza sofferenze, un inizio non facile contro la neopromossa così carica e con questo furore, che ha operato anche sul mercato con grande attenzione con l'acquisto di Cellini ad esempio, e infatti è stato un match complicato sin dall'inizio con il gol di Obodo a fine primo tempo, che non ha rimediato però alle due reti precedenti. Non ho seguito in toto la partita, ho riscontrato valutazioni di colleghi sui quotidiani negative per la prestazione del Torino, soprattutto per quella di Bernacchi. Rolando Bianchi chiaramente è un giocatore imprescindibile. Prima di passare al traffico vorrei farvi sentire, anzi ve lo anticipo, poi lo sentiamo più tardi dopo la pausa, come gli inglesi hanno curato con un'attenzione veramente tremenda l'inglese non impeccabile di Fabio Capello, ormai a 2 anni dal suo insediamento sulla panchina della nazionale. Carlo da Cremona, come mai il fenomeno Balotelli ieri sera non ha giocato? Infortunato, problemi al ginocchio, forse addirittura salta anche il doppio impegno con la nazionale di Prandelli per le qualificazioni a Euro 2012. Poi una segnalazione di servizio al 349-238-6666. Pasquale ricorda che dalla provincia di Napoli il segnale di Radio 24 non è ottimale, dunque cercheremo come sempre in maniera rapida di migliorarlo. Riccardo invece ci ricorda a sua volta che oltre al gol di testa sbagliato con Liverpool, i tifosi della Juve di Ibrahimovic ricordano anche quello contro l'Arsenal a un metro dalla porta. Carlo da Cremona ha scritto che, anzi Guido da Varese, chiedo scusa, ha scritto alla mail a tempo di sport @radio24.it che Ibra se n'è andato a Milano, da Milano da re, se torna lo farà da fallito, pessimo risultato, pessime scelte, sono anni che la dirigenza del Milan porta a termine operazioni di ex calciatori che sembrano solo di disturbo verso la parte vincente di Milano, Ronaldo, Vieri, eccetera. A cosa serve? A compiacere la piazza rossonera? Certo, non a vincere. Non so se il paragone sia tecnicamente adeguato. Certo, Ronaldo nel derby con la maglia del Milan segnò un gol pazzesco, poi il suo rendimento complessivo non è stato sicuramente all'altezza dei tempi migliori del Real, dell'Inter, del Barcellona. E Ibrahimovic non è ancora un ex giocatore, non sarà facile recuperare subito tutta la fiducia e la confidenza che aveva quando se n'è andato dall'Inter, anche se per il suo carattere gli scivola talmente tutto addosso che credo che sia un problema limitato questo per lui. Mauro dalla provincia di Varese ha chiamato all'800 24 00 24. Buon pomeriggio. Buongiorno. Io volevo dire, non mi risulta che nessuna squadra italiana o europea si sia interessata a Donovan, quello degli Stati Uniti. Sì. Volevo chiedere come mai, non potrebbe far comodo. Grazie, ascolto per radio. Sì, no, beh, certamente sì, è un buon giocatore. Il Milan si era interessato a Donovan, che insomma a sua volta invece poi aveva richiamato Ronaldinho, si era parlato di una possibilità di scambio addirittura con i Galaxy. È un giocatore che probabilmente sta bene anche dov'è, per come ha lavorato in questi anni anche nel campionato inglese. Insomma, è un giocatore che ha delle qualità, sicuramente potrebbe essere anche adattabile al calcio italiano e probabilmente anche dei costi notevoli. Ha giocato nell'Everton, ha giocato nel Bayer Leverkusen. Insomma, è un giocatore che ha anche una buona carriera, la sua notazione è sicuramente corretta e potrebbe adattarsi a diverse squadre italiane. Michele della provincia di Udine, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio anche a voi. Io volevo esporre una breve considerazione su cui volevo la vostra opinione. Premetto che sono tifoso dell'Udinese, quindi vedo la cosa da osservatore esterno e neutrale, ma sento anche un attimino quello che pensano i miei amici che sono invece milanisti. Ma l'operazione Ibrahimovic non è umiliante dal punto di vista del Milan, cioè una squadra che va a chiedere umiliante, ha detto? Come il Milan. Sì, secondo me sì, nel senso che una squadra blasonata come il Milan che va a chiedere un prestito con un pagamento parziale dell'ingaggio a un'altra squadra, cioè una squadra del blasone come il Milan, io trovo anche giusto che si cerchi l'austerità nei programmi eccetera eccetera, ma a quel punto vai a puntare sui giovani e valorizzarli come aveva fatto bene con Pato, con Gourcuff, con Kakà, sì. E lasciare questa politica del vorrei che non posso, andando a cercare i campioni altrui pagati da squadre altrui per una squadra così blasonata. Vi ascolto, grazie. Grazie a lei Michele. Bah, sicuramente credo che la trattativa dal punto di vista economico sia complessa e il Barcellona che accetta Borriello in prestito con scambio di prestiti e in più paga parte dell'ingaggio di Ibrahimovic è qualcosa di impensabile. Poi magari succede e Rossell rischia anche di trovarsi di fronte a Ibrahimovic che chissà poi in Champions va al Camp Nou e ritrova la personalità europea che praticamente mai ha avuto e a quel punto affossa definitivamente in partenza il nuovo presidente del Barcellona. Guardiola è stato molto chiaro, anche oggi in conferenza stampa ha ribadito in attesa dell'inizio della Liga il mio mestiere non è quello di rispondere agli agenti dei calciatori. Questa figura di Raiola in Spagna, dove sono abituati al calciomercato aperto tutto l'anno, alla rivalità acerrima Barcellona-Madrid, il mondo deportivo, sport, Marca, AS, nonostante questo la figura di Raiola e il comportamento che ha avuto Ibrahimovic sono cose che in Spagna fanno fatica a comprendere e ad accettare, perché poi quello che si ricordano sono le prestazioni di Ibra, che, come dice un amico di Barcellona, alla fine ha lasciato che fosse Piqué il miglior attaccante del Barça tra andata e ritorno con la maglia blaugrana. Bisogna capire quanto al Barcellona dà fastidio la presenza di Ibrahimovic in panchina e in attesa di una ulteriore collocazione. Bisogna capire se questo prestito provvisorio, che lei definisce umiliante, non ha poi una possibilità di sfogo nell'estate prossima, quando il Milan ha 9 contratti in scadenza e può dunque trovare la soluzione economica per acquisire in maniera definitiva, riscattando Ibrahimovic. Bisogna capire quanto a Borriello fa comodo andare al Barcellona. Qualcuno oggi ha scritto: potrebbe giocarsi posto con David Villa. È una bella ambizione, con le caratteristiche che ha Borriello e con il modo che ha di giocare il Barcellona, oltre al valore individuale dei due giocatori, pur mantenendo una stima notevole per Borriello, che con Gilardino un gradino dietro in questo momento rispetto a Pazzini è il miglior centravanti italiano. Matteo da Roma, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Senta, io le volevo chiedere una cosa abbastanza semplice. Da tifoso juventino, volevo sapere la Juve con la rosa che c'ha, dove potrebbe arrivare in Europa League, se se la può giocare con le altre squadre. Non è facile, nel senso che è un torneo che quest'anno è molto competitivo. C'è il Manchester City, che abbiamo visto sta giocando discretamente, soprattutto ieri contro il Liverpool, meglio di quanto abbia fatto nella prima giornata, in cui ha tremato parecchio con il Tottenham a White Hart Lane. Ci sono anche altre squadre. A febbraio qualcuna nobile dalla Champions spesso arriva, e arriva con grandi ambizioni, se pensiamo anche all'Atletico di Madrid, che poi alla fine ha vinto l'Europa League dell'anno scorso, aveva iniziato la sua stagione europea in Champions. Quindi l'ambizione e l'obiettivo non sono facili, è un impegno notevole dal punto di vista anche temporale, logistico, perché si gioca il giovedì sera e poi la domenica si è di nuovo in campo, spesso magari alla sera. Non è una gestione facile. Bisogna capire se la Juve, e questo è il limite in questo momento principale, ha la rosa per gestire entrambi gli impegni ad alto livello. Luciano da Genova, poi chiudiamo con Fabio Capello e passiamo ai motori. Non c'è Luciano da Genova, non c'è più, c'è Enrico d'Alessandria che scrive quasi tutti i giorni, presidente credo dello Samp Club di Alessandria, dice: sognate, sognate, ma tanto Cassano e Pazzini restano qui anche se la Samp non va in Champions League. Sentiamolo Gianpaolo Pazzini con le sue considerazioni alla vigilia del match di ritorno. La Samp deve vincere 2-0 o con tre gol di scarto sul Werder Bremen, che ha solo 16 giocatori ed è privo di Hunt e Almeida, due ottime pedine. Siamo ripresentati di tiro con l'obiettivo del preliminare, per tanti era la prima volta, quindi c'era molto mistero tra virgolette, quindi non si sapeva cosa si poteva trovare in campo internazionale. Invece, anche se è un po' difficile da dire, ci ha dato fiducia, perché sì, è vero, abbiamo perso, però secondo me abbiamo perso male, perché siamo stati un po' sfortunati. Se qualche episodio girava diversamente, sicuramente la partita poteva cambiare, e quindi credo che questo ci abbia dato la fiducia che possiamo far bene. Questa sera la Sampdoria con il Werder, non semplice neppure l'impegno del Siviglia, che deve recuperare lo 0-1 in Portogallo contro il Braga. Si gioca in Andalusia questa sera, mentre Anderlecht e Partizan partono dal 2-2 dell'andata a Belgrado, si gioca questa sera a Bruxelles. Prima dei motori vi faccio sentire, come vi ho anticipato, Fabio Capello in questa rivisitazione di Head Cases, che è un programma satirico di animazione che va in onda su ITV in Inghilterra dall'aprile del 2008. La scenetta è questa, con una vignetta, un cartone animato, cappello, occhiali, mascella volitiva, come diceva Germano Movolente sulla Gazzetta, abito nero, camicia bianca, cravatta rossa, davanti una lavagna con tutte le pedine della sua nazionale che lui sposta in maniera piuttosto agitata. Di fianco a lui un primo traduttore con abito nero e papillon londinese. Ancora di fianco il terzo che sentirete, un traduttore dal londinese al liverpoolese, perché l'accento di Liverpool è tremendo, per avere poi la risposta di Steven Gerrard, che a sua volta verrà ritradotta per Capello. È una scenetta che incide naturalmente sulla considerazione che hanno gli inglesi di Fabio Capello, che non è riuscito a imparare in maniera corretta, secondo loro, la lingua da quando è arrivato a guidare la nazionale inglese. Sentite. Gerard, tu devi spingere più vicino alle due punte, ok? Gerard, you will need to push up behind the front two, ok? Stevie, you need like to push up there much further behind that there front two and that, ok? No worries, boss. That won't be a problem, boss. Non ci sarà nessun problema con quello lì. Bene, ok? Good, ok? Top, ok? Crack! Ne ha tradotto anche il good, ok, bene, per Fabio Capello. Siamo in chiusura, però prima una parentesi di motori. Sport e motori. Si torna in pista in Belgio nel weekend, Spa-Francorchamps per la Formula 1. Questa è la valutazione del collega di Sky Sport Carlo Vanzini con Massimo Di Scienza all'interno di Sport e Motori. Fernando Alonso a Spa teme soprattutto la McLaren, teme soprattutto Lewis Hamilton, l'ha dichiarato, ha detto sono sicuro che lì tornerà ad essere molto competitiva la McLaren, però va detto l'esperienza dello scorso anno insegna quanto la Ferrari in una stagione assolutamente disastrosa su quella pista, una Ferrari che è sempre stata nelle prime posizioni come velocità di punta, si è trovata a vincere con Raikkonen, a battagliare addirittura, lo ricorderete, una gara incredibile con la Force India di Giancarlo Fisichella. Quindi la Ferrari parte dall'esperienza dello scorso anno per quanto riguarda la ricerca della velocità, si presenterà, da quello che mi hanno detto, con delle nuove soluzioni, quindi ci saranno delle novità ovviamente studiate prima di questo periodo di pausa. Da domani si riapre la serranda, tutti al lavoro per preparare questo weekend. Questo era Carlo Vanzini, collega di Sky Sport, sul prossimo weekend di Formula 1. Ci ritroviamo domani su Radio 24 per parlare soprattutto di tessera del tifoso. Buon pomeriggio da Massimo Callegari. A tempo di sport.